Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questo perché noi cerchiamo soprattutto gli animali altri, la loro condizione, il modo in cui vengono considerati, pensati, immaginati, negletti o protetti. E questo lo facciamo per ogni tipo di notizia, per ogni tipo di dibattito su attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e altro ancora. Nella puntata di questa settimana, che è la numero 691, parleremo ancora di JJ4, l'orsa dichiarata colpevole di aver ucciso il runner trentino Andrea Papi e per questo condannata a morte. Vi porteremo poi in Francia, dove l'88enne Brigitte Bardot ha mobilitato tutta la sua notorietà per lanciare un j'accuse contro il presidente Macron. Infine parte questa settimana la rubrica Animali da set, una rubrica che si occupa di animali nel cinema, curata dal nostro filmologo, critico cinematografico, antispecista di riferimento Emilio Maggio. Non mancherà la consueta ricetta vegana a tema, firmata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, che questa settimana curerà anche il montaggio musicale della puntata, tutto un montaggio musicale a tema. Speriamo di avervi incuriosito. Torniamo a parlare di JJ4, l'orsa che il 5 aprile ha attaccato e ucciso il giovane runner Andrea Papi nei boschi sopra Caldes in Val di Non. L'orsa è stata catturata a pochi chilometri dal luogo dell'aggressione ed è attualmente prigioniera nell'area faunistica del Casteller, dove da anni patisce la cattività anche l'orso M49, chiamato Papillon, per le sue incredibili fughe dallo stesso recinto del Casteller, un recinto che è stato rinforzato. Siamo in attesa di conoscere quale sarà il destino dell'orsa. Si avvicina infatti la data dell'11 maggio, quando si deciderà sulla sospensiva dell'ordinanza di abbattimento. Stanno finalmente emergendo spaccature, quindi un pluralismo di voci, di posizioni, di idee riguardo alla condanna a morte dell'orsa. Molti finalmente stanno prendendo le distanze e criticano la decisione della provincia autonoma di Trento. Dalle istituzioni, ma anche da esperti, tecnici, faunistici, biologi ed etologi, sta emergendo che il comportamento dell'orsa nell'episodio dell'incontro-scontro con il runner non può essere definito anomalo. Questa carrellata con la posizione forse più dolorosa, ma proprio per questo anche più significativa, che viene da persone direttamente colpite da questa tragedia. Sto parlando di Franca Ghirardini e di Carlo Papi, i genitori del 26enne morto. Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, i genitori di Papi hanno rilasciato dichiarazioni molto civili, sostenendo che l'uccisione di JJ4 non restituirà la vita del loro figlio. Vi leggiamo le loro parole. Hanno detto: troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un animale a cui non può essere imputata la volontà di uccidere. Non ci interessano i trofei della politica. Qualcuno, hanno continuato i genitori di Papi, deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità della morte di Andrea, a costo di fare qualche passo indietro rispetto al ruolo pubblico che ricopre il governo dell'attuale provincia, come quelli che l'hanno preceduto. Hanno tutti il dovere di chiarire, assieme allo Stato, se è stato fatto il possibile per garantire la sicurezza. Le istituzioni non hanno fatto niente per spiegare alla gente come comportarsi con un numero così alto di orsi. Hanno lasciato tutti ignoranti e tranquilli. Nessuno ha fatto il necessario per rendere la presenza degli orsi compatibile con la nostra e la loro vita. Pretendiamo un'assunzione morale di responsabilità da parte di chi, per quasi un quarto di secolo, ha gestito gli orsi in Trentino, spingendo tutti nel disastro a cui assistiamo. E curiosamente la posizione dei genitori di Papi è molto molto simile alla nostra, una posizione che riteniamo giusta perché appunto va alla radice del problema, ovvero alle responsabilità istituzionali, e prefigura la possibilità di una convivenza, purché informata e rispettosa, naturalmente con l'utilizzo di tutta una serie di cautele necessarie per la convivenza tra umani e non umani. Padre, padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, madre, butta i panni e prova ancora, se ne voglia, a coccolarmi, perché ne manchi se sono stato così lontano, è stato solo per salvarmi. Così lontano è stato solo per salvarmi. No, una delle notizie più rilevanti riguardanti la questione dell'orso GG4 è il fatto che si è finalmente tenuto un tavolo di confronto tecnico sulla gestione degli orsi in Trentino presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta della task force del MASE, con il coinvolgimento permanente delle associazioni, come richiesto dallo stesso Ministero. Quindi finalmente il Ministero si impone con delle sue strategie al di sopra della provincia autonoma di Trento. In questo contesto sarebbe stato deciso di mettere finalmente a punto un piano strategico per la gestione dei plantigradi e in generale per la convivenza con gli animali selvatici. Questa proposta escluderebbe l'uccisione o il trasferimento di massa degli orsi e prefigurerebbe un inquadramento complessivo della coesistenza tra uomo e orsi attraverso azioni concrete a breve e lungo termine, quindi corridoi faunistici, dispersione delle femmine, controllo delle nascite attraverso la vasectomia degli orsi più grandi, identificazione degli orsi, realizzazione di un grande santuario al posto di quello del Castellar e attuazione di metodi dissuasivi, soprattutto tanta prevenzione e informazione. A questo tavolo è stato anche fatto notare che dall'insediamento della giunta Fogatti nel 2018 è stato sospeso quel tavolo di lavoro e quel rapporto annuale sui grandi carnivori, che invece rappresentavano gli strumenti più appropriati per identificare le politiche opportune ed efficaci sugli orsi. Quindi un cambio di passo nei confronti della questione del rapporto con i selvatici che fa sperare bene. Delle molte voci istituzionali autorevoli e dissonanti rispetto alla condanna a morte dell'orsa è quella del ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il quale, parlando ai microfoni di Radio Anch'io, ha sostenuto che fino all'11 maggio saranno cercate soluzioni di trasferimento per l'orsa. Spero che si riesca a trasferirla, ha sostenuto il ministro, perché non è una soluzione abbatterla. Quindi anche il ministro non concorda con la scelta personalissima di Maurizio Fugatti di voler annientare, uccidere non solo l'orsa GG4 ma anche altri 50 orsi. L'Ente Nazionale Protezione Animali parla addirittura di una personalissima guerra di Maurizio Fugatti contro i plantigradi. L'Ordine dei Veterinari, ancora andiamo avanti nella nostra carrellata, qui incontriamo l'Ordine dei Veterinari che ha diffidato, pensate, i medici dall'eseguire l'eutanasia all'orsa in quanto sarebbe contrario al codice deontologico. Infatti il codice dei medici veterinari impone che l'eutanasia sia ammessa ma solo come eccezione e al solo scopo di evitare ad un animale inutili sofferenze dovute al suo stato di salute. L'orsa invece è in buone condizioni generali di salute, pertanto non ci sarebbe alcun motivo medico, scientifico per attuare un'eutanasia. La decisione di abbatterla è squisitamente politica, pertanto se la condanna a morte dovesse essere confermata, la responsabilità di questo omicidio, di questo ecocidio, dovranno prendersela le istituzioni politiche compiendo l'atto attraverso i loro stessi apparati. Stranger, euthanasia. They say it's painless, euthanasia. Abbiamo parlato delle istituzioni, ma andiamo a vedere cosa succede sul fronte animalista, cioè cosa stanno facendo gli attivisti, le attiviste animaliste a beneficio dell'Orsa GG4. Tra le diverse azioni intraprese c'è anche quella del boicottaggio. Il boicottaggio, lo ricordiamo, è un'azione non violenta, legale, che può far capire che le scelte locali hanno ripercussioni che vanno anche al di là del territorio. Il movimento invita i cittadini sensibili al tema degli orsi a scegliere di non trascorrere le vacanze in Trentino, ritenendo che il danno economico possa fare pressione sulle persone fino addirittura a rinnegare la scelta elettorale di un amministratore come Fugatti. Molte persone quindi hanno iniziato a disdire le loro vacanze in provincia di Trento, un segnale che deve arrivare all'elettorato. Oltre a disdire la propria prenotazione, gli attivisti animalisti chiedono di inviare un'email all'ente del turismo trentino presso direzione@trentinomarketing.org, specificando che non si tratta di una rinuncia per paura di incontrare un orso, bensì proprio per protesta verso la gestione della coabitazione con la fauna selvatica dell'attuale amministrazione. Forse l'avvenimento più importante e più significativo di questi giorni dal nostro punto di vista è la manifestazione animalista che si è svolta a Trento domenica 23 aprile scorso, che è consistita anche in un presidio davanti al centro di Casteller dove si trova l'orsa prigioniera. Centinaia di persone hanno manifestato, hanno esposto cartelli di denuncia e di protesta. È stato poi aperto un microfono e alcune persone hanno preso la parola denunciando la moltitudine di dichiarazioni che negli ultimi giorni si sono susseguite da ogni parte del mondo politico e da vari personaggi pubblici che hanno contribuito ad aumentare la confusione rispetto alla situazione degli orsi. Tra i responsabili di questa disinformazione mediatica sono stati citati Reinhold Messner e Licia Colò, ma anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Gli animalisti smentiscono con forza il discorso pubblico che viene fatto secondo il quale ci sarebbe un eccesso numerico di orsi in Trentino. A sostenere questo è anche il medico responsabile del progetto Orsi per la provincia di Trento, responsabile anche della cura dei plantigradi detenuti nella prigione del Casteller. Sembra che questo medico veterinario abbia dichiarato che il Trentino potrebbe accogliere senza problemi anche 300 orsi. Ovviamente prendendo le dovute precauzioni e con la dovuta informazione pubblica. Noi, in quanto conduttori di questa trasmissione, quindi partecipi di un media, non possiamo fare a meno di notare il ruolo fondamentale dei media e di certi cosiddetti opinion leader quando si tratta di costruire ad arte certi allarmi mediatici, le cosiddette emergenze, costruite ad arte per solleticare l'intolleranza o proprio l'odio nei confronti di viventi che sono ritenuti di serie B. È accaduto con i cinghiali, è accaduto con i lupi, adesso sta accadendo con gli orsi, ma in questi stessi giorni, vogliamo ricordarlo, accade anche con gli immigrati che arrivano via mare alle coste del nostro paese, che vengono descritti come un'orda, come una massa, come un'ondata, come un'invasione e che sono sempre ritenuti troppi e portatori di enormi criticità, sebbene allo stesso tempo non si faccia che dire che in Italia non c'è forza lavoro, che mancano operai, che c'è un calo demografico, che occorre più manodopera. E poi ci sono i casi di serie A invece, descritti in modo totalmente differente, come per esempio accaduto quando si è trattato di accogliere i profughi ucraini. E sebbene i numeri fossero assai più imponenti, non c'è stato alcun disagio sociale da affrontare, forse perché i media in quel caso hanno giustamente plaudito l'operazione e hanno legittimato l'accoglienza proponendola come la cosa più normale e sacrosanta da fare. Adesso andiamo in Francia, dove Brigitte Bardot lancia un durissimo j'accuse al presidente Emmanuel Macron con una lunga lettera pubblicata su Twitter nella quale lo definisce, senza usare mezzi termini, un essere malefico. Bardot sostiene che Macron arrivi addirittura a provare un piacere sadico nel far soffrire sia il suo popolo, ci riferiamo alle recenti manifestazioni contro la riforma sulle pensioni, ma anche coloro che lei definisce i più umili, i più vulnerabili, i più sottomessi, cioè gli animali. Ma andiamo a vedere quali sono le vicende che hanno scatenato la rabbia della più anziana e famosa animalista del mondo. Macron avrebbe creato un nuovo mercato con il Giappone inviando 1000 cavalli all'anno in aereo e vivi in condizioni atroci per farne sushi. Un proficuo sacrilegio, dice Bardot, una macelleria abominevole e disgustosa. Noi purtroppo abbiamo verificato questa notizia e dobbiamo, nostro malgrado, confermarvi che è vera. In effetti in Giappone la carne cruda di cavallo è molto ricercata e gli animali vengono davvero esportati vivi, soprattutto da Canada e Francia. Brigitte Bardot rimprovera poi a Macron che la Francia sia diventata il principale fornitore di bestiame vivo dell'Algeria. Ancora si tratta di animali vivi, le cui condizioni di trasporto e macellazione sono atroci. Noi più volte in questa trasmissione ne abbiamo parlato. Bardot descrive questi commerci come un proficuo sacrilegio, una macelleria abominevole e disgustosa, con la morte di migliaia di esseri senzienti, bovini e ovini, condannati a vivere l'inferno. Bardot, senza mezzi termini, accusa l'intero governo di fare queste scelte nel tentativo di salvare con un cucchiaino l'abissale debito speso male. Con parole molto dure, Bardot conclude che la mancanza di empatia e di autorità di Macron lo rende un burattino spregevole, uno straccio triste, bravo ad asciugare il sangue e la morte che porta a regnare su questo paese in cui le luci si sono spente, e spera che la sua dichiarazione faccia reagire Macron e lo renda consapevole della sua inutilità e codardia. Noi non affideremo a Brigitte Bardot delle missioni diplomatiche, ma pensiamo che sia corretto da parte di un attivista come lei avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, anche in modo irriverente quando è necessario, e soprattutto senza servilismo. Non sarebbe tutto più comprensibile se a spiegarci le scelte politiche ed economiche dei nostri governanti fossero dei personaggi come Brigitte Bardot? Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo! Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo! Toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, bébé, bébé, je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot. No animals were harmed in the making of this film. Nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo film. Questo disclaimer che appare nei titoli di coda è ormai famoso in tutto il mondo. Ma è davvero così? Davvero gli animali che vediamo nei film non sono stati maltrattati? E in che modo vengono scelti? Chi li procura? Chi li addestra? E soprattutto come? Ha senso mandare un messaggio a favore degli animali utilizzando animali addestrati? A queste e a tante altre domande cercherà di rispondere la nostra nuova rubrica in più puntate, una rubrica che ci è stata proposta dal filmologo di fiducia Emilio Maggio e che siamo felici di accogliere. Si intitola Animali da set. Alcune puntate fa avevamo mandato in onda un breve antefatto di questo ciclo. Oggi siamo lieti finalmente di annunciare la prima puntata. Questa è la prima puntata di una serie dedicata agli animali da set. Prima di entrare nel merito della puntata, volevo fare una brevissima premessa. E cioè, per restringere il campo a queste mie dissertazioni sugli animali da set, che sono sempre anche animali cinematografici, cioè esseri che espletano la loro ontologia entrando e uscendo dal campo cinematografico, cioè dal campo dell'inquadratura, ho pensato di circoscrivere i temi da affrontare ricorrendo strategicamente all'abecedario. I lemmi, infatti, danno la possibilità di produrre un lavoro coerente senza andare avanti all'infinito. Il primo lemma che ho scelto è animazione, in quanto a proposito di sfruttamento degli animali da set, questa sembrerebbe essere la soluzione ideale, migliore, poiché non implica ovviamente materialmente il loro impiego. Insomma, smaterializzare l'animale in guisa di segno animato implicherebbe anche un atteggiamento etico a priori. Personalmente non sono sicuro che questo sia sempre vero, i cartoni animali, scusate il gioco di parole, tendono infatti a configurare un mondo sostanzialmente antropomorfico, in cui gli animali finiscono generalmente per essere degli avatar immaginari degli individui umani con i loro pregi e i loro difetti. Essi riproducono, cioè, un mondo semplificato in cui l'umanità continua a chiedersi chi siamo, da dove veniamo, a scapito dell'altrimenti che umano. La Disney Production Company, ad esempio, il più grande fagocitatore di immagini, suoni e giochi contemporaneo, rappresenta l'emblema di questo processo che non è mai tramontato, seppure oggi le sue produzioni ammicchino scaltramente al rispetto di tutte le identità politiche, etniche, religiose, sociali, di genere e perfino di specie. Io penso che tra l'iconoclastia estrema della galassia animalista e il fanatismo cinefilo della galassia Lumière, accecata dai falsi movimenti delle immagini che acquisiscono valore solo quando sono percepite come autentiche, esista una terza via in grado di immaginare prospettive inedite sul dispositivo cinematografico che, malgrado sia stato definito l'occhio del Novecento, continua inesorabilmente ad evolversi e a produrre nuove modalità di visione, anche grazie al peso che gli altri animali continuano a esercitare sull'immaginario collettivo e sul futuro stesso del cinema come spazio in cui far circolare liberamente desideri, pensieri, emozioni. Per contrastare l'allestimento della spietatezza in cui l'effetto speciale della morte certifica la fragranza del girato, bisognerebbe adottare soluzioni ibride che in qualche modo alterino la passività dello spettatore e ne recuperino la dimensione critica, liberandolo dalle pastoie ideologiche e dal senso comune dominante. Per questo è bene ricordare come fino a poco tempo fa, quando ancora magari non esistevano normative atte a prevenire i maltrattamenti sul set, nel cinema tutto, da quello autoriale a quello di bassa lega, si arrivava perfino a uccidere gli animali durante le riprese. Ricordo a questo proposito, per esempio, l'abbattimento di un maiale nel Novecento di Bertolucci, oppure, per finire nella pura exploitation, i cosiddetti mondo movies italiani degli anni 70, dove con la scusa di documentare le truci tradizioni del cosiddetto primitivo mondo extra-occidentale, si sacrificavano animali davanti a alla macchina da presa. Insomma, prodotti segnati dalla volontà di stupire e solleticare il voyeurismo dello spettatore, in cui la poetica autoriale poteva arrivare a insostenibili livelli di specismo, così come al razzismo e al colonialismo, in qualche modo connaturato ai sottogeneri della visione estrema. Esistono comunque validissimi esempi di cinema d'animazione che hanno cercato di superare l'impasse dell'antropomorfismo, radicalizzando il punto di vista dell'animale a tal punto da rimettere in discussione anche il genere di cui erano parte integrante. Dalla sublime poesia di Miyazaki all'animazione d'avanguardia di Topor nell'epocale Il pianeta selvaggio, fino ad arrivare alla recente Okja, spero di averlo pronunciato bene, del regista Rivelazione Bong Joon-ho, in cui in una commistione di live action e motion capture irrompono sulla scena perfino i militanti dell'Animal Liberation Front. In fondo, animazione ha più a che fare con animaux, il neologismo coniato da Derrida, con cui il filosofo si proponeva di declinare l'animalità al plurale fornendo loro un volto riconoscibile. La crasi di animale e parola, infatti, produce uno sbandamento, uno slittamento significamento e una pluralità di significati in grado non solo di decostruire le categorie umano-animale, ma anche di fornire prospettive inedite su due mondi segnati apparentemente da differenze abissali. Se l'animale dotato di parola allora rimette in discussione l'intera storia dell'umano strutturata sullo statuto del linguaggio e su quello della ragione, i cartoni animali hanno le potenzialità di rimettere in discussione l'intera storia del cinema strutturata su un'ideale figura umana. L'animazione cinematografica pertanto produce una visione anamorfica, un'illusione ottica, cioè in grado di ribellarsi alle consuete prospettive antropocentriche in cui spesso il concetto prende il sopravvento sulla vita. Guarda, c'è un bel film, se facciamo in tempo ci andrei. Dustin Hoffman, Al Pacino, la Dunaway, entriamo c'è anche lei. C'è un posto, siedi, io resto in piedi. Questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà in onore della nuova rubrica Animali da Set. La ricetta quindi di oggi sarà un piatto molto cinematografico e ovviamente senza crudeltà. Sentiamo la proposta del nostro chef. Cucina e cinema si sono spesso incontrati, contaminandosi a vicenda. Ad esempio, chi non è rimasto affascinato e al tempo stesso disgustato dal talento culinario di Hannibal Lecter? O come dimenticare l'orgia gastronomica della grande abbuffata. A tema cinema è anche la ricetta che vi racconto oggi, ed è quella dei pomodori verdi fritti, che in questo caso non si trovano alla fermata del treno, ma in un bel gratin tutto vegetale. Buona visione, no, buon appetito! Gratin di pomodori verdi. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 pomodori verdi di media grandezza, 100 g di semola di grano duro, 60 g di farina tipo 0, 2 cucchiai di pan grattato, 2 cipolle di tropea, 500 ml di brodo vegetale, 50 ml di latte di soia naturale, 20 g di farina di ceci, un pizzico di noce moscata, un pizzico di curcuma in polvere, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Lavate e tagliate pomodori a fette alti 1 cm. Passateli nella semola di grano duro e friggete in padella con olio extravergine. Scolate e lasciate intiepidire. Nel frattempo affettate le cipolle di tropea e fatele scottare in una casseruola con mezzo bicchiere di acqua. Quando questa sarà ritirata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare le cipolle dolcemente, aggiustando di sale e pepe. A parte, stemperate la farina in 50 ml di olio extravergine e fate tostare a fiamma bassa in una casseruola, facendo attenzione che non si bruci. Aggiungete un pizzico di curcuma e di noce moscata, quindi mescolando con una frusta incorporate il brodo vegetale. Fate ritirare a fuoco lento fino ad ottenere una besciamella abbastanza densa. Stemperate la farina di ceci nel latte di soia e unite il composto alla besciamella. Aggiungete anche le cipolle e qualche foglia di basilico spezzata a mano. Sul fondo di una pirofila stendete uno strato di besciamella, quindi coprite con le fette di pomodori verdi fritti. Coprite ancora con un secondo strato di besciamella, disponete un secondo strato di pomodori e terminate con un'ultima dose di besciamella. Spolverate la superficie con il pan grattato e un cucchiaio di olio extravergine. Infornate a 180 gradi in modalità ventilata per 25 minuti. Lasciate intiepidire per 15 minuti prima di servire. Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione completa, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier,